si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati. L'appuntamento con Si può fare, l'altra cronaca su Radio 24, il sabato e la domenica a mezzogiorno. Subito i nostri contatti su Facebook, Si può fare, trattino Radio 24. Poi siamo anche su Twitter, Si può fare 24, io invece Ale Maurizi. E poi, insomma, c'è anche la mail, per i più timidi, se volete scriverci, Si può fare at radio24.it. Continuate a mandarci le vostre storie, le vostre segnalazioni, che come vedrete poi di settimana in settimana noi utilizzeremo nel programma, facendo anche i dovuti ringraziamenti. Adesso qualche notizia per iniziare. Intanto c'è un aggiornamento sul movimento No Slot, che sta nascendo, sta crescendo in Italia. Cresce la consapevolezza sul fatto che, insomma, il dilagare delle case da gioco non è proprio la cosa più auspicabile che si potesse immaginare. Anche dal punto di vista economico non è che sia, come dire, un'attività che possa creare chissà quanti posti di lavoro. Crea invece tante difficoltà. Se ne è accorto anche il signor Carlo Bellini con il suo bar, Carlos Bar, in piazza Livigno di Castiglione. Siamo in provincia di Bergamo. Aveva messo anche lui le slot e poi ha deciso di tornare indietro. Dice: questo è un esercizio che richiama tante famiglie e ora ho moltissimi riscontri, che è stato il meglio per noi. Sul bar adesso c'è l'adesivo No Slot. Proteste a Genova per difendere gli spazi verdi. Ma come? Si dice sempre ogni volta che piovono due gocce d'acqua che non bisogna più cementificare, soprattutto nelle città, poi in Liguria. E qua a San Fruttuoso vogliono costruire un parcheggio, un silos, in uno spazio dove c'era una scuola e un parco. Ora ditemi voi se questa cosa qua è normale. Non lo so. La notizia è questa: c'è stata un sit-in, poi una manifestazione, saranno ricevuti dal comune per vedere se questo progetto di costruire il parcheggio nel parco verrà sospeso. Cosa si può fare di bello in un parco pubblico? Ve lo spiegano a Milano, dove il mese di giugno in alcuni parchi e piazze milanesi c'è l'iniziativa Palestra in Piazza, praticamente patrocinata dal comune. Si potrà andare, lo dico per i milanesi, Piazza Leonardo da Vinci, Città Studi e Parco Chiesa Rossa, Grato Soglio. È un'idea bella anche per altre città, però questa qua. Si può presentare nel tardo pomeriggio e si possono trovare corsi di tai chi, rugby, yoga, break dance, box, pattinaggio, zumba, insomma tante belle cose si possono fare in un parco, meglio di un parcheggio. Parcheggi facciamoli fuori dalle città. Chiamateci sui contatti che vi abbiamo appena dato e raccontateci se, insomma, questa cosa qua del parcheggio di Genova la conoscete. Vogliamo avere qualche notizia in più. E poi c'è l'appello per salvare il Maggio Fiorentino. Cari amici, siamo Elio e le Storie Tese. Ciao. E siamo d'accordo con il maestro Mehta. Non lasciamo morire il Maggio musicale fiorentino. No. No. No. No. No. No. No. E no. E ve lo dice gente di un certo livello. Oh. Con gli attributi, insomma. Questa cosa qua l'avevamo fatta già sentire qualche tempo fa. Intanto c'è stato un incontro tra il sindaco di Firenze Renzi e il ministro per la cultura Brai per cercare di capire se si può finanziare un po' il Maggio Fiorentino, una istituzione stranota, straconosciuta all'estero, importante per quanto riguarda la nostra cultura, diciamolo così, e quindi non si può lasciar morire. Ci sono 120 esuberi e pensate quanto può essere difficile la vita per un musicista giovane, se è difficile per quelli del Maggio Fiorentino. Per i nostri giovani musicisti italiani, creativi, artisti, deve essere veramente impossibile. Lo dimostra una storia che andremo tra poco a raccontare, l'Orchestra dei Precari, che viene da Parma. Questa è la storia di Guido Ponsini, che suona la viola da gamba, e Miriam Farina, che suona l'arpa. Lui 28 anni, lei 21. Li salutiamo perché sono in collegamento, dovrebbero esserci tutte e due. Buongiorno. Salve. Salve, buongiorno. Eccoci qua. I giornali hanno scritto l'Orchestra dei Precari. Loro in realtà sono già un duo, suonano gli strumenti che ho appena detto e si chiamano la MG Inc. Orchestra. E insomma, tra l'altro anche con qualche successo, no? Perché avete suonato, avete avuto anche un premio a San Pietroburgo, Guido. Sì, abbiamo vinto il Terran Crossover, che è un premio unico nel suo genere, nel senso che è rivolto a tutte le realtà che fanno crossover con strumenti classici, ovvero che uniscono sia la classicità con la proposta di nuove tendenze contemporanee. E siamo l'unico ensemble italiano ad averlo vinto. Perché voi volete sperimentare, siete musicisti del conservatorio, però fate una musica, adesso poi sentiremo magari anche qualcosina, insomma, in cui c'è di mezzo anche la ricerca, no? Non vi fermate ai canoni della musica classica. Detto questo però, il vostro progetto nuovo adesso è quello, insomma, di smuovere un po' le acque. Voi dite, sulla cultura si investe troppo poco, investiamo, facciamo qualcosa. Voi avete in mente un progetto, di che si tratta, Guido? Dunque, il progetto della M-Ginc Orchestra nasce appunto dal fatto che chi attualmente in Italia decide di investire tutta la propria vita in una formazione appunto artistica si ritrova, uscito dal conservatorio, che le orchestre attualmente pochissime assumono, quasi nessuna, anzi le stanno chiudendo. Concerti è difficilissimo, a meno di avere il supporto di un'agenzia o quant'altro. Per cui noi abbiamo detto, perché non creiamo un'orchestra diretta da giovani, perché siamo gli unici referenti della direzione di questa orchestra, siamo io e Miriam, che possa dare lavoro prima di tutto a giovani musicisti, quindi dare una nuova opportunità professionale a chi esce con lo studio di uno strumento, ma anche in futuro auspichiamo la possibilità di creare una realtà stabile che vada a commissionare nuove opere a giovani compositori, giovani direttori d'orchestra, aprendo anche a collaborazioni con nomi che magari vogliono dimostrare che investire nei giovani sia il futuro per uscire da questa crisi culturale che in Italia è abbastanza tragica. Sentiamo un attimo anche Miriam, che c'è anche lei. Miriam, eccola. Sì, eccomi. 21enne, suonare l'arpa non è una cosa proprio da tutti. Come si inizia a suonare l'arpa, Miriam? A che età? Due dipende. Anni? No. Come suonare qualsiasi altro strumento, in definitiva, anche se sembra un pochino più strano e più di nicchia. Sì. Io ho iniziato da molto piccola, perché in seconda elementare mi hanno fatto far finta di suonare un'arpa in una recita scolastica. E da lì, insomma, dalla finzione sei arrivata alla realtà. Si può fare. Cronache da un paese migliore. M-Ginc Orchestra è un progetto pensato dai giovani a sostegno della cultura musicale italiana, nato per promuovere nuovi talenti mediante la creazione di una realtà artistica innovativa che potrà consolidarsi in una nuova opportunità lavorativa. Ma chi è M-Ginc? M-Ginc siamo noi, Miriam e Guido. Nel 2011 abbiamo fondato un duo unico al mondo, composto da viola da gamba e arpa. La nostra musica unisce tradizione e innovazione, è stata apprezzata Italia all'estero, viaggiando in radio e sul web. Ma nel nostro cammino abbiamo incontrato non poche difficoltà, per cui ci siamo... Ecco, sulle difficoltà entriamo e torniamo. Questo è... Torniamo in diretta. Questo era un passaggio del video che avete registrato e che c'è online, lo si può trovare, proprio per lanciare questa iniziativa. Voi servono 4.000 euro per far suonare per la prima volta tutti insieme questi 18 elementi di questa orchestra, no, Guido? Il vostro progetto al momento è questo. Che questi 4.000 euro che noi abbiamo deciso di raccogliere tramite il crowdfunding serviranno a coprire le spese per far partire questo progetto, che però, ripetiamo, vuole diventare una realtà stabile, non vuole semplicemente essere legato a un singolo concerto, perché altrimenti verrebbe meno la nostra idea di base. La vostra idea di base, ma che la vostra idea di base, ricordiamolo, è quella anche di scardinare un po' il meccanismo. Noi abbiamo parlato, per esempio, della questione del Maggio Fiorentino, che è in difficoltà, in crisi, la fondazione, c'è stato l'incontro tra il sindaco Renzi, il ministro della cultura, e io ho detto, figuriamoci se hanno problemi loro, quanti problemi possono avere i giovani a entrare nella musica. Tra l'altro, Guido, mi spiegavi che c'è anche un meccanismo del pagamento dei diritti alla SIAE, un meccanismo giusto, che però penalizza chi esegue musica contemporanea. Spiegacelo un po'. Sì, di fatto in Italia, in teoria, per le linee guida, per i finanziamenti, la produzione di musica contemporanea dovrebbe essere preferibile, anzi dovrebbe essere un criterio che permette più facilmente di ottenere i finanziamenti. Di fatto la musica contemporanea in Italia viene relegata in poche situazioni, semplicemente perché a livello proprio fiscale organizzare un concerto che comprende composizioni contemporanee ha un costo molto più elevato rispetto al repertorio, e noi un po' vogliamo andare contro questa tendenza facendo un'orchestra che non fa repertorio come molte altre orchestre giovanili, ma vuole commissionare in prima persona e quindi andare a creare un nuovo repertorio. Sentiamo un po' come avete fatto, come avete rifatto l'Inno d'Italia con questo duo che è diciamo è il nucleo di quello che poi sarà l'orchestra. Il duo però esiste già, sentiamo. Insomma, l'esame di musica l'avete superato sicuramente. Adesso, giusto per far sentire, perché avete poi realizzato questo inno, Guido? Magari faccio spiegare a Miriam. Sì. Facciamolo spiegare a Miriam. Miriam. Dunque, l'inno è nato, diciamo, in concomitanza con la nascita del nostro duo. Abbiamo deciso di realizzare questo arrangiamento che su internet è visibile anche tramite un video che abbiamo realizzato, molto sì, semplice, in casa, proprio perché volevamo rappresentare la situazione precaria di tutti i musicisti come noi che verso la fine degli studi o avendo terminato gli studi non possono trovare lavoro in Italia, o perlomeno è molto difficile, e sono costretti ad andare all'estero. Quindi questo inno d'Italia vuole rappresentare una specie di richiamo anche all'Italia, cioè abbiamo studiato qui, siamo nati in Italia, siamo italiani, è giusto anche poter esprimere la propria arte, che è frutto di un lavoro immenso, di uno studio decennale, se sì, non di più, in Italia. Va bene, insomma, che dire, intanto in bocca al lupo per il vostro appuntamento, che lo ricordiamo, tra l'altro dobbiamo ringraziare forse anche qualcuno a Parma, Guido, perché chi è che vi sta dando una mano? Il Conservatorio di Parma ci sta dando un supporto abbastanza importante a livello proprio del luogo, perché il concerto sì, sarà, naturalmente, se raccogliamo i fondi. Ce la fate, il 12 ottobre all'auditorium del Carmine, che è l'auditorium sì, praticamente annesso al conservatorio. Perfetto, quindi questo è l'appuntamento, cioè se va tutto bene il 12 ottobre all'Auditorium del Carmine a Parma ci sarà questo concerto, il primo concerto dell'orchestra, la MG Inc. Orchestra, ribattezzata l'Orchestra dei Precari, e se va tutto bene. Io spero che vada tutto bene, naturalmente. In bocca al lupo a tutti e due, grazie intanto per averci raccontato la vostra storia. E vabbè, insomma, avete sentito. E che si possa investire sulla cultura e, per esempio, per favorire anche il turismo, lo dimostra la storia che adesso vi andiamo a raccontare, che titoliamo con la nostra rubrica Ho visto cose. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Italia sì, Italia no, Italia boom, la terra di cachi. Allora, la notizia è questa qua. C'è un gruppo di americani che sono venuti a studiare i canti sardi, quelli dei tenores, no? Avete presente? E la cosa ha fatto abbastanza notizia, insomma, in Sardegna, che si muovono dall'America per venire qua a studiare i canti sardi, a impararli e che li riportino poi in America, insomma, è una cosa che non si era mai sentita. Vabbè, d'altra parte i tenores meritano questo ed altro, o anche un viaggio così lungo. Sentiamo allora l'esibizione di questi tenori americani, che sono i tenores di Aterrué. Oh, Vabbè, insomma, succede anche questo. Questa è la notizia, appunto, di questo gruppo. Il capofila è Douglas Paisley dal Massachusetts, che dal 2004 che sognava di venire in Sardegna a fare questo viaggio, a scoprire la musica sarda. Pensate che ha dovuto fare anche lui ha cercato i fondi sul web per organizzare questa visita culturale in Sardegna. Insomma, abbiamo da insegnarne in giro per il mondo. Adesso invece andiamo a Ferrara. Se un consumatore consapevole vuoi diventare, a Ferrara devi andare. Con una sonrisa compro il dolore di aquel che dejó en la tierra su corazón. Y compraré el llanto de los niños, compraré el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré aquellos pies descalzos que pisé, compraré. Vabbè, su questa melodia di José Luis Perales, compraré, abbiamo voluto introdurre che cosa? Questo, il Festival di Altro Consumo, che si svolge dal 7 al 9 giugno a Ferrara. Abbiamo convocato il direttore, anzi la direttrice del mensile L'Altro Consumo, Rosanna Massarenti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, un'importante associazione di consumatori che si apre per la prima volta in un festival, quindi ai suoi associati, al suo pubblico, alle persone di riferimento, però anche magari anche agli altri. Rosanna, che cosa accade a Ferrara in questi giorni? Allora, è la prima volta che noi ci apriamo a tutti, non solo ai nostri soci, ma a tutti i cittadini, e che ci presentiamo facendoli partecipi di tutto quello che è il nostro lavoro normale nella nostra sede. Noi facciamo informazione, abbiamo 4 giornali, facciamo consulenze su tantissimi temi pratici della vita quotidiana delle persone, quindi come scegliere i migliori prodotti alimentari, come risparmiare con i contratti della luce, del telefono, del gas, come trovare il conto corrente meno caro, cosa guardare nelle condizioni, non so, del contratto di mutuo, come risparmiare sulla spesa farmaceutica. Ci occupiamo a tutto tondo di quelli che sono i bisogni delle famiglie in ogni momento dell'anno e della giornata, insomma. E tutto questo con un lavoro grandemente professionale che abbiamo deciso di, in tutta trasparenza, mettere a disposizione di tutti, ma proprio di tutti e gratuitamente, a Ferrara. Tra l'altro Rosanna citava già alcuni dei temi, poi magari dopo vediamo anche nel dettaglio, sì. Ci sono dei titoli di questi incontri, test, giochi, che sono consulenze molto molto interessanti, sì, sì, io invito, certo, tutti ad andarsene a vedere, perché ce n'è per tutti i gusti. Rosanna, intanto anche una cosa, perché proprio avete scelto Ferrara per ospitare per la prima volta questo vostro festival di Altro Consumo? Allora, intanto Ferrara è una città modello, è una città sostenibile, ci sono più biciclette che telefonini, è una città molto... Bella questa, più biciclette che telefonini, avete sì, proprio la statistica su questo? Sì, sì. O è una sì, battuta? No, è la verità. La verità ce l'hanno detto gli amministratori. È un'amministrazione che è molto attenta ai bisogni dei cittadini, che organizza nel corso dell'anno tantissime manifestazioni di alto profilo, manifestazioni culturali, concerti, festival come il nostro è la prima volta, ma festival di grande partecipazione, e poi perché Ferrara ci ospita. Questo è un festival molto particolare, perché è un festival senza sponsor. Altro Consumo non ha pubblicità sulle riviste, non l'ha mai avuta e non l'avrà mai, e quindi non poteva avere uno sponsor per il suo festival, sì. Perché questo ci consente di essere liberi di informare senza condizionamenti, ed è una condizione assolutamente irrinunciabile. A cui voi comunque ci tenete, ed è sicuramente anche una garanzia di, insomma, di indipendenza. È per la voi nostra che, garanzia di indipendenza, che fate informazione che fa la su questo, sì. Anche di tutta la nostra informazione e di tutta la nostra offerta di servizi. Allora, no? Io, ecco, sì, libera da conflitti di interesse di qualsiasi tipo. Voglio leggere dal sito, scusami Rosanna, sì, se ti interrompo, perché adesso abbiamo una breve pausa. Detersivi, come leggere l'etichetta, il gioco, frigorifero, a ciascun cibo il suo posto, oppure le bici elettriche, provale con noi. Queste sono alcune delle cose che si possono fare in questi giorni a Ferrara. Adesso, dopo una pausa, torniamo di nuovo con Rosanna Massarenti, direttore di Altro Consumo. si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo insieme, si può fare cronaca da un paese migliore, vi ricordo anche i nostri contatti, si può fare trattino radio 24 su Facebook, si può fare 24 su Twitter, Ale Maurizi, io invece il mio account su Twitter, di nuovo in compagnia di Rosanna Massarenti, direttore di Altro Consumo. Allora, io stavo leggendo un po' i titoli degli incontri, delle tavole rotonde, ma soprattutto dei test, dei giochi che si possono fare, delle consulenze preziose che voi date. Detersivi, come leggere l'etichetta, un quarto d'ora per imparare a scegliere bene rispettando l'ambiente e il portafoglio. Che si può dire per esempio su questo, Rosanna? Può dire che dunque tutto il festival è pienissimo di appuntamenti, alcuni sono diciamo più articolati, altri sono quasi dei consigli volanti, sì. Dire, no? Questi sui detersivi, un quarto d'ora per capire come si usano i detersivi, come si scelgono, come bisogna... Un quarto d'ora però poi non è che poi al supermercato ci vuole un quarto d'ora per scegliere, no, c'è un quarto d'ora di lezione per essere poi in grado. Una volta che noi abbiamo dato le informazioni poi si va a colpo sicuro, sì. E quindi ci sono delle delle pillole di informazione molto veloci, mm-hmm. che ripetiamo magari più volte nella giornata, sì. Così però molto utili per risparmiare, per non inquinare troppo, perché usare in maniera intelligente i prodotti. Ricordiamo che la vostra mission è insomma unire la qualità e il risparmio in tutto, insomma, per quanto riguarda, per esempio, c'è anche avete la banca dati dei farmaci, per esempio. Abbiamo la banca dati dei farmaci perché insomma in questo periodo di crisi abbiamo visto che molte famiglie hanno anche difficoltà a curarsi, spesso non sanno che potrebbero farlo in modo eccellente senza rinunciare, sì. a nulla, spendendo anche di meno. Quindi abbiamo una banca dati sui farmaci, per esempio, che sarà accessibile tra l'altro a tutti nei tre giorni del festival, come tutte le nostre banche dati e tutto il nostro sito, quindi sì. anche chi non potrà venire potrà approfittare, potrà fare una prova da casa sua. Ma questa è una bella occasione. Sì, e quindi uno può scegliere di consultarla inserendo il nome del farmaco, il nome del principio attivo, e trova in pochi minuti il farmaco meno caro che fa il caso suo. È un modo intelligente di risparmiare per sé, di far risparmiare lo Stato, insomma di creare dei circoli virtuosi che invece insomma è molto difficile con l'informazione corrente Poi, a raggiungere. Leggo ancora, non so, bimbi e merende, mamme in classe, laboratorio per i bambini dai 4 agli 11 anni, su prenotazione. Questo devo dire sarà un evento molto carino perché intanto avremo degli ospiti d'eccezione, perché abbiamo Marco Bianchi, che è un divulgatore scientifico, sì. nutrizionista dello IEO, dell'Istituto Europeo di Oncologia, e Lucilla Titti, anche lei che fa parte dello stesso progetto di educazione alimentare dell'Istituto Europeo di Oncologia, quindi insieme a loro i bambini potranno prepararsi una merenda sana. Tutto questo nell'ambito della discussione sul problema dell'obesità infantile, e per affrontare in maniera divertente e il più possibile rilassata, no? temi che poi sono dei temi seri, no? Una conferenza sull'obesità infantile sarebbe sicuramente meno attraente e probabilmente farebbe passare meno informazione di una merenda preparata. Beh, certo, quello uno se la ricorda e la può rifare, esatto, quando una vuole. Una lezione fatta alle mamme dai nostri esperti nutrizionisti. Sì. Quindi è un po' in tutto lo spirito del festival l'idea di parlare di argomenti molto seri, molto a volte veramente quasi drammatici in questo momento, ma in maniera dico leggera, per dire. No, beh, insomma, abbiamo facile, capito, leggera, no? Ci sono anche momenti di spettacolo, tra l'altro c'è Diego Parassole che da anni porta avanti spettacoli sul consumo consapevole. Un'altra cosa di cui voglio parlare è però l'iniziativa Abbassa la Bolletta, perché questa è una cosa che state portando avanti, diciamo, che c'entra col festival, ma è un'iniziativa vostra. In che cosa consiste? C'entra col festival perché al festival ci saranno molte postazioni alle quali potranno avere delle informazioni più dettagliate. Comunque noi abbiamo lanciato un gruppo d'acquisto energia una settimana fa, chiedendo alle persone di iscriversi sul nostro sito oppure su abbassalabolletta.it, per creare appunto un gruppo d'acquisto di tante persone che unite possono contribuire, diciamo così, a dare un po' di movimento a questo mercato dell'energia, della luce e del gas, che anche se è stato liberalizzato da anni, continua ad essere un po' fermo, la gente ha paura a cambiare, non si fida, non capisce bene la convenienza di alcune tariffe rispetto ad altre, eccetera. Quindi la nostra idea è questa: raccogliere tante adesioni, aderire è assolutamente gratuito, ci vuole un minuto e non è vincolante per nulla. Una volta raccolte le adesioni, ecco, fino a questo momento in una settimana ne abbiamo raccolte 37.000, che sono un numero enorme, faremo in settembre una gara tra le compagnie appunto di fornitura di luce e gas che vorranno aderire. A chi farà risparmiare più alto, qualcosa? Insomma, più chi farà spendere sarà il numero meno, degli aderenti, più grande sarà la nostra capacità di ottenere delle buone condizioni, cioè, sia economiche. Il più sia grande gruppo d'acquisto nel campo dell'energia che sia mai esistito in Italia, forse. La butto lì. E vabbè, insomma, anche questa è un'iniziativa che trovate se andate a Ferrara in questi giorni, fino al 9 giugno, fino a domani, domenica, cioè, con il Festival dell'Altro Consumo. Io ringrazio per essere stata con noi Rosanna Massarenti, grazie per il lavoro che fate. Invito tutti a partecipare, c'è anche grande musica, c'è Mauro Pagani, tante cose, insomma, vi verremo a trovare a Ferrara, aspettateci. Tutto gratis e aperto a tutti. Grazie. E invece un altro suggerimento per risparmiare, vero, vogliamo dare, viene dal web, è un sito nato da poco, si chiama locklock.it. Voglio la mia foto su novella, 2000 su e 4000, voglio un'intervista, stare in bella vista, fare il conduttore, il governatore, forse il rettore, no l'imperatore. Voglio andare al Grande Fratello, serata in discoteca, la mia foto nella teca, voglio essere come più diputati, niente più mi sfuga. Non l'hai deciso tu, l'ha detto la TV. Sì, sì, sì. Insomma, tutto quello che non si può avere perché non si può avere, dicono i Vallanzasca. Invece c'è un nuovo sito che si chiama locklock.it che vi aiuta ad avere un po' tutto quello che vi serve. È un sito dove si affitta di tutto. È un'iniziativa nata da poco, che tra l'altro in Italia non c'era, come sempre la importiamo dall'estero, e noi invece abbiamo convocato qua la sua animatrice e fondatrice, Michela Nosè. Buongiorno. Buongiorno a tutti, salve. Allora, ripetiamo intanto, perché Lock Lock? Allora, Lock Lock perché ricorda le due azioni, metta noleggio e prenda noleggio, perché questa piattaforma dà la possibilità a chiunque sia di prendere a noleggio, ma anche di mettere oggetti propri in condivisione, quindi a noleggio. Ricorda un po' locazione. Perfetto. Era per uscire un po' dagli affitti, noleggi spesso usati. Ok, un sito che c'è da poco, perché siete partiti a metà marzo. Con Fa la cosa giusta, sì, siamo partiti, una mia idea nata a ottobre del 2012, sì. E ci ho lavorato dietro parecchio, sono riuscita ad andare online a marzo, il 3 marzo in realtà. E che cosa si può affittare? Perché naturalmente è un'idea questa che può aiutare nella ricerca del risparmio, perché se uno ha bisogno di qualcosa, anziché comprarselo, certo ci sono dei posti specializzati dove affittare gli sci, però bisogna andare direttamente in montagna o altre cose. Invece voi mettete insieme un po' tutto e quindi diciamo che rendete questa possibilità, ecco, di risparmiare. Sì, perché LockLock vuole proprio essere la prima piattaforma, un po' un collettore per il noleggio, ma che dà per la prima volta anche la possibilità ai privati di noleggiare e di mettere a noleggio. Guarda, le nostre case sono piene di oggetti acquistati spesso sull'onda di passioni o necessità del momento, che poi in realtà finiscono inutilizzati e dimenticati. Per cui perché non condividerli? Il trapano, la gelatiera, l'attrezzatura sportiva da mountain bike, gli sci, gli attrezzi da giardinaggio, l'abito comprato per il matrimonio della cugina di tuo marito che hai messo una volta e che però potrebbe essere di interesse per qualcun altro, che a sua volta invece di acquistarlo trovandolo su LockLock paga pochi euro, lo utilizza, per cui in realtà ti trovi a pagare per quello che usi e allo stesso tempo tu guadagni per una cosa che hai acquistato e dimenticato. Quali sono le transazioni che siete, visto che siete partiti da poco, che siete già riusciti a fare, così giusto per... per raccontarci? Ma sicuramente in occasione del blocco del traffico ci sono state tante transazioni per biciclette, perché sai, non tutti hanno la possibilità di tenersi una bicicletta a casa piuttosto che in un box. Te la rubano poi, quindi figurati. Esatto. A proposito, ma c'è l'assicurazione? Come funziona? Se io prendo a noleggio un paio di sci e poi succede qualcosa? Sai, per un sito del genere noi abbiamo lavorato tantissimo sulla sicurezza e sull'affidabilità, per cui prima cosa abbiamo lavorato per l'assicurazione, perché l'iscrizione è gratuita, come anche l'inserimento degli annunci è gratuito, però il tuo oggetto è coperto da un'assicurazione fino a 990 euro. Infatti noi sul canone di locazione chiediamo a chi prende a noleggio una commissione che varia dal 10 al 20%. Sì. E questo ci consente a noi poi di dare una copertura assicurativa. Non è ancora successo nelle transazioni che avete fatto fino adesso che qualcuno si sia portato a casa la bicicletta, no? No, assolutamente, anche perché poi a discrezione dell'utente chiedere per oggetti di valore anche un deposito cauzionale. Il tutto chiaramente è gestito attraverso un contratto che noi diamo sempre agli utenti e invitiamo sempre a scaricarsi, a firmare entrambe le parti, a vedere se l'oggetto magari ha una bottarella piuttosto che manca di qualcosa. Noi assolutamente consigliamo sempre di firmare il contratto, perché tutela sia l'utente, per cui anche eventualmente per essere coperto certo. da un'assicurazione. C'è anche il tandem, no? Il tandem è stato infatti uno dei primi noleggi e a me piace parlare spesso del tandem, perché Lock dà sia la possibilità di guadagnare, di risparmiare e soprattutto anche di promuovere una maggior sostenibilità ambientale, perché sai, meno acquisti vuol dire anche meno sprechi, ma è anche una vetrina, la chiamo io, per il divertimento, nel senso che trovi oggetti che mai ti verrebbe in mente di prendere. Certo, uno non è che si compra un tandem, però gli può venire voglia un pomeriggio o un weekend. È un weekend con un tandem. È divertente, insomma, perché no? Costa anche poco come divertimento, non fa male a nessuno. E vabbè, insomma, abbiamo detto anche questa. Io ti ringrazio, Michela Nosè, fondatrice di locklock.it. Se andate sul sito capite tutto quello di cui abbiamo parlato. In bocca al lupo per questa nuova iniziativa, che in pratica è anche una startup in Italia. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because 2 times 3 is 6 and 3 times 6 is 18 and the 18th letter in the alphabet is R. Yeah. We got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Where's Allora, salutiamo il vincitore dell'iniziativa Sfida all'ultima sporta. Ne avevamo parlato un po' di tempo fa, al momento del lancio. Il comune di Rubano, nella persona dell'assessore all'ambiente Lorenzo Segato. Buongiorno. Buongiorno. Allora, di cosa stiamo parlando, diranno i nostri ascoltatori. Già, di cosa stiamo parlando? Sfida all'ultima sporta, una campagna lanciata dall'Associazione dei Comuni Virtuosi per sensibilizzare contro l'uso dei sacchetti usa e getta. Adesso ci siamo lasciati alle spalle l'epoca dei sacchetti di plastica, non del tutto, perché ci sono ancora in circolazione in plastica non biodegradabili. Ci sono quelli biodegradabili, però è comunque una spesa, ci sono quelli di carta. E questa campagna ha voluto proprio sensibilizzare su questo. Hanno messo in gara quanti comuni, poi avete vinto voi? I comuni erano 14 che hanno partecipato. Quelli che hanno aderito a questa idea. Si trattava in pratica di monitorare il consumo negozio per negozio e vedere poi alla fine chi, perché il modo che avete trovato per misurare la cosa, che hanno trovato quello dei comuni virtuosi, era gli scontrini dove c'era annesso lo shop, insomma il sacchetto, no? Esatto, sì. E voi? Sì. No, il meccanismo era molto interessante perché si trattava di vedere la diminuzione delle vendite con sacchetto monouso. Sì. E da un lato i negozi dovevano certificare le loro spese e dall'altro lato c'erano degli ispettori in incognito che girando per i negozi controllavano che i dati fossero autentici. E vabbè, insomma, voi avete raggiunto la cifra, adesso vado a leggere, del 33% di acquisti, mi aiuti, fatti senza sacchetto. Sì. tutti gli altri col sacchetto, insomma. Uno dice non è molto, però fateci caso, in qualunque posto andate, anche se comprate, che ne so, una pila, vi danno un sacchettino, no? Cioè, e in effetti è uno spreco, è un'assurdità, che serve? Si può fare di meglio, voi fate di meglio. Sì, l'idea dell'iniziativa è legata poi alla direttiva europea sulla riduzione del consumo di sacchetti, non solo di plastica, perché qui non si parla soltanto della plastica, ma di tutto quello che è usa e getta. Per cui anche il sacchetto di carta, se veniva venduto e non riutilizzato, contava come sacchetto venduto. Quindi la sfida era ancora più interessante, perché si trattava di usare o sacchetti riciclabili più volte, indipendentemente dal materiale, o proprio di fare acquisti senza sacchetti. E questo si inserisce un po' nelle iniziative che noi come Comune stiamo facendo, come assieme a molti altri, sul tema dell'ambiente. Ormai, un po' per le risorse che mancano, un po' perché la sensibilità sta migliorando, ci siamo resi conto che bisogna fare di più e fare qualcosina di meglio, e da soli sicuramente non possono né le amministrazioni né i singoli cittadini. Quindi assieme a tante altre iniziative questa ci è sembrata un'ottima occasione per fare qualcosa di meglio. Tanto avete beccato anche il Montepremi, no? 20.000 euro messi in palio proprio dai comuni virtuosi. Diciamo che questo è un valore aggiunto che ha reso ancora più appetibile la sfida. Perché lei mi diceva, Assessore, che all'inizio, diciamo, che cosa ha fatto un po' la differenza? Perché avete vinto voi e non altri? Insomma, poi la fortuna, ma anche il fatto che lei ha preso questa cosa sul serio, è andata in giro sensibilizzando i negozi, grandi e piccoli, centri commercianti, dicendo anche, guardate, noi siamo un piccolo comune, possiamo vincere anche questo Montepremi, lo usiamo per aggiustare la scuola. E quindi questa cosa, l'incentivo ha funzionato, no? È andata un po' così. Sì, l'iniziativa ci è piaciuta molto e ci abbiamo creduto fin dall'inizio. E il Montepremi era rivolto, proprio in base a quello che diceva il bando, ad aiutare le scuole, e questa è stata un po' una leva che ci ha permesso di convincere in modo più facile anche gli esercizi commerciali, la grande distribuzione, perché di fatto anche loro sono presenti sul territorio, i problemi li conosciamo, e quindi questo è stato sicuramente un elemento che ci ha aiutato. E l'altra strategia è stata quella di passare attraverso i bambini, cioè di coinvolgere molto, oltre ai commercianti, anche i cittadini e soprattutto le scuole, perché di solito quando un bambino si convince di una cosa è difficile che i genitori riescano a opporgli resistenza, e quindi spiegando bene ai bambini che papà e le mamme dovevano comprare senza sacchetti, probabilmente abbiamo raggiunto un risultato oltre le nostre avete aspettative. Toccato il tasto giusto. Proprio di bambini e di scuole, mi diceva che tra le iniziative che avete fatto voi ce n'è una bella. L'anno scorso avete fatto un concorso per disegnare delle sacchetti di cotone. Sì, sempre nell'ottica di collaborare con Porta la Sporta, l'anno scorso abbiamo lanciato un concorso per realizzare un disegno da mettere nelle shoppers di cotone che avremo distribuito nel territorio, quindi centinaia di bambini di scolaresche hanno partecipato producendo dei disegni tra l'altro bellissimi, e alla fine è risultato un disegno vincitore molto bello che è stato stampato su migliaia di borse che poi i commercianti hanno distribuito ai nostri cittadini quando andavano a fare la spesa. E queste borse torneranno adesso, perché con una piccola parte del Montepremi contiamo di ristamparle, e quindi anche per i bambini ci sarà un ritorno concreto di questo loro impegno. Benissimo, grazie e complimenti, perché siete più sostenibili di altri. Grazie per essere stato con noi, anche all'assessore del Comune di Rubano, Lorenzo Segato. Noi ci fermiamo qua anche per oggi. Io ringrazio in redazione Franco Piantanida, Valentina Magri, Andrea Piana, che ha scritto con me il programma, Paolo Corleoni in regia. A me mi trovate su Twitter, @ Ale Maurizi. Ci sentiamo domani a mezzogiorno. Cari amici, siamo Elio e le Storie Tese. Ciao. E siamo d'accordo con il maestro Mehta. Non lasciamo morire il maggio musicale fiorentino. No, no, no, no, no, no e no. E ve lo dice gente di un certo livello. Oh. Con gli attributi.